Buongiorno a tutti, sono Francesco Sarubbi, presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti Reduci della sezione di Paullo. Prima di iniziare vorrei ringraziare l'amministrazione comunale per averci coinvolto in questa giornata di commemorazione, il responsabile alla cultura Roberto Marracini, l'ANPI di Paullo con il suo presidente Renato Castelli, il quale da oggi 10 febbraio alle ore 15 e fino al 9 marzo nella palestra dell'ex scuola elementare, dalle 15 alle 18, nei giorni di martedì, giovedì e sabato, ha allestito una mostra fotografica dal titolo Jugoslavia a ferro e fuoco. Si ringrazia per la collaborazione anche l'Associazione Nazionale Carabinieri e l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia delle sezioni locali. Oggi 10 febbraio si celebra la giornata del ricordo. Venne istituita con la legge del 30 marzo del 2004, numero 92, per conservare e rinnovare la memoria delle vittime italiane delle foibe e dell'esodo dalle loro terre, istriane, fiumane e dalmate, nel secondo dopoguerra, e della vicenda del confine orientale da parte dell'impero comunista guidato da Tito e dai suoi partigiani. Prima di passare alla lettura della testimonianza tratta dal libro L'Esodo, la tragedia negata degli italiani d'Istria, Dalmazia e Venezia Giulia di Arrigo Petacco, è necessario fare degli accenni storici. L'8 settembre del 1943, dopo l'armistizio, l'esercito italiano si trovò allo sbando a causa della mancanza di ordine e direzione. Le truppe tedesche assunsero il controllo di una buona parte dell'Europa orientale. Trieste, Pola, Fiume e la Venezia Giulia, territori all'epoca italiane. In quel lasso di tempo iniziarono a registrarsi le prime rappresaglie nei confronti degli italiani da parte dell'Armata Popolare del Maresciallo Tito, il quale nel 1945 riuscì a liberare l'Istria dalle truppe tedesche. Lo stesso, con il suo esercito di partigiani, puntò direttamente su Trieste, Gorizia, passando per Fiume e Pola. Qui le forze comuniste diedero il via a una nuova fase di infoibamenti. Vennero uccisi, oltre a militari e poliziotti, impiegati civili di ogni categoria, funzionari statali, moltissimi civili, donne, bambini, uomini e tutti coloro che si opponevano all'avanzata dell'esercito comunista. Queste azioni spinsero la maggior parte della popolazione di lingua italiana a lasciare le proprie regioni nell'immediato, da qui il nome di Esodo. Come strumento di eliminazione e di occultamento dei cadaveri, l'esercito jugoslavo usò le foibe, che erano fosse profonde anche 300 metri, oppure massicciate ferroviarie o anche le profondità del mare, contro coloro il quale si opponeva alla sua avanzata. Tutte queste barbarie da parte del regime comunista e la sofferenza di quei popoli sono rimaste nell'indifferenza dell'umanità per molti anni, affinché i vari racconti di esodati non lo fecero divenire alla luce. Ora vi leggerò la testimonianza di Graziano Dovisi, nato a Pola nel 1925. Nel 1943 si arruola nel reggimento italiano. Il 5 maggio viene fatto prigioniero e torturato dall'esercito titino. Il 14 maggio viene infoibato, ma riesce a salvarsi. Buon ascolto a tutti e buongiorno del ricordo.